La notizia positiva è che sicuramente non raggiungeremo il livello monster di Pechino, perché a Pechino furono spesi alla fine circa 42 milioni di euro, così come lievitò del 250% Atene 2004, quindi post evento, quando poi si fanno i conti. La notizia invece negativa è che rispetto alla previsione di budget, che era di 4 miliardi e mezzo, nella fase finale dell'assegnazione, in cui era in gara in lizza anche Parigi, che presentava un budget un po' più alto, intorno ai 5 miliardi e 300 milioni di euro, siamo ampiamente oltre l'asticella dei 14 miliardi e potrebbe ulteriormente crescere questa previsione di spesa, perché comunque il governo britannico ha stanziato un fondo imprevisti che è compreso tra 1,5 miliardi e 4,5 miliardi.